Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Pronto? Eccolo, pronto? Eccolo. Sapete che un battito di farfalla in Sud America crea un terremoto in Europa? Seguo molto il calcio, ma i mondiali me li vedo sempre. Ti rimane quella cosa sin da quando eri ragazzino. Sai, le redazioni italiane, quando si fermano, quando gioca la nazionale, è l'unico momento in cui non squillano i telefoni in redazione, no? La palla passa Oscar. Ti rendi conto che se venisse un cronista dal New York Times o dall'estero e vedesse questo spettacolo ci definirebbe come una gabbia di matti? Sei un po' lontano, sembra che parli da una catacomba. Se mi avessi visto 20 minuti fa sembrava uno zombie. Visto che la sfida l'ha lanciata lui, cioè Di Maio, siamo in presenza di una nuova conferma di uno stile di leadership, ancora tutto da verificare. E credo che chi fa politica sia oggetto a critiche come tutti coloro che ci mettono la faccia e decidono di farlo. C'è un quadro con un fassino nudo, sottissimo, al posto delle parti intime c'è un peperoncino e due marò. Tu ora sei vice direttore, hai già molestato qualcuno oppure no? Io, che io sappia, no, poi spero che qualcuno non dichiari l'opposto. Troviamo in ballo una scena con crostacei e ostriche. Caro, quindi siamo a metà strada, che dobbiamo fare? Dobbiamo pagare alla romana? Sì, forse hai ragione, non ho tenuto conto di questa cosa. Mi scusi. Dico una cosa colta, tu te lo ricordi il Don Ferrante di Manzoni? Certo. Don Ferrante di Manzoni discuteva se la peste è sostanza o accidente, mentre discuteva questo muovi di peste. Il Don Ferrante di Manzoni evocato da Alessandro De Angelis, una profezia apocalittica per la sinistra, ma forse anche per questo paese. Le 6:33 minuti 22 secondi e noi abbiamo la fortuna, popolo dei già svegli, di iniziare la giornata con la sapienza, l'arguzia, l'intelligenza perspicace di Mario Giordano. Mario, buongiorno, esagerato, non mi hai così, poveretti, già sto subire la mia voce fastidiosa nelle prime ore del mattino. Adesso ti faccio soffrire. Già uno si sveglia alle 6:30, ancora la mia voce è terribile. Adesso ti faccio soffrire perché annidata in una rigolina delle pagine di cronaca di Repubblica c'è la notizia che Porro potrebbe essere il candidato presidente alle regionali del Lazio, lo vuole il Cavaliere. Ah, fantastico. E che fai, glielo auguri o consigli di scappare? Ho visto che nei giorni scorsi il Messaggero ha fatto anche il nome di Liguori e adesso il nome di Porro si vede che gira non lo so, io non so se augurare mai ad un giornalista di fare politica e non credo neanche che Nicola insomma... No, infatti c'è scritto che lui dice lo so ma preferisco fare il mio lavoro. Esatto, questo non l'avevo visto. Ma anche tu rifiuteresti? Io rifiuterei sicuramente, anche se voglio dire, come dire, è un incarico, però rifiuterei e rifiuterò qualsiasi cosa che vada in quella direzione. Avete capito? Ammonizione a chi deve sapere. Bene, iniziamo, cagliamoci nel fritto misto del giorno, partendo da lui, da Matteo, ieri la famosa e attesa comparsata da Floris. Devi Ghillo, mi sta dicendo che io mi devo dare fuoco in piazza. Qual è la proposta di D'Alema? Che penso che lo accontenterei, però diciamo mi sembra un pochino eccessivo. No, mi dica lei. C'è una cosa, ognuno tiri fuori, siccome hanno scelto un altro partito, ognuno pensa al suo partito. Io so perfettamente che... Me lo dica lei in che modo si può andare incontro a D'Alema? Io penso che questa discussione sia sterile, perché il potenziale premier lo decide il Parlamento, purtroppo avendo perso il referendum e non essendoci il meccanismo in cui la sera delle elezioni si sa chi ha vinto. Perché abbiamo perso il referendum, il potenziale premier lo sceglie il presidente della Repubblica che darà un incarico. Allora, chi non l'ha visto si risente le battute al fritto misto, chi l'ha già visto se lo gode nella filigrana, perché è un'esternazione importante. Tu l'hai visto ieri, Mario? Certo che l'ho visto, non mi nego nessuna sofferenza. Facci il riassuntino, qual è il senso del Renzi di ieri? Era reattivo, carico, polemico? Sì, che è il solito Renzi, nel bene e nel male, cioè nel bene perché comunque è uno reattivo, uno che ci ha messo la faccia, che è andato lì, insomma, in una situazione che è stata un'intervista vera, anche, come dire, combattuta, lottato. È il solito Renzi che non ha capito una mazza della sconfitta in Sicilia, come non aveva capito nulla della sconfitta del referendum, come se fosse entrato dal 4 dicembre dell'anno scorso in un loop negativo in cui tutto quello che fa è remire all'incontrario, prima tutto quello che faceva era oro, dopo tutto quello che fa si rovina. Si capisce che non ha capito quello che sta succedendo, è come se fosse rotto il contatto con il paese, è drammatico, è davvero, cioè si vede lo stesso attore che recita sempre lo stesso copione, però nel frattempo il teatro è cambiato, gli spettatori sono andati via, è rimasto solo sul palcoscenico, è una scena piuttosto triste. Gene Gnocchi, caustica satira di sinistra sull'ex premier. Renzi non ne sbaglia una, è andata tutto come aveva previsto lui, il suo obiettivo era il 40%, ci ha preso in pieno, il centrodestra in Sicilia ha preso il 40%. Ecco. Freccero, il no di Di Maio è, pensate com'è, è dadaista. Renzi tutti questi anni è stato il leader assoluto, il leader che ha dominato la scena mediatica tutto il tempo, esce da queste elezioni molto male e di conseguenza dire io non discuto con te perché non sei più leader, mi sembra che è come fare i baffi alla Gioconda, un gesto dadaista. Sei d'accordo o è stato un errore dire no a quel confronto? Perché oggi lui parla sul Corriere. Sì, l'ho visto, sto vedendo, ma posso dirti che però si dà un'importanza esagerata al fatto, no? Ma ognuno ovviamente fa il suo interesse, poi ha giudicato, prima gli sembrava, e poi dopo ha giudicato che gli sembrava meno importante. Noi siamo 4 giorni che ci stiamo qua accapigliando attorno al fatto se Di Maio e Renzi fanno interesse, ma secondo te... Ma alla gente che stamattina sta andando a lavorare, si è alzata. Da 1 a 10. Da 1 a 10. Ma quanto minchia gliene frega di quanto se Di Maio e Renzi si sono confrontati? No, perché noi ci siamo arrovellati, il dibattito, appunto il gesto dadaista, non è dadaista, ha fatto bene, ha fatto male, ha guadagnato, ma sostanzialmente è un dibattito, uno lo accetta o non lo accetta a seconda delle sue convenienze. Cioè, mi sembra financo una roba esagerata. Renzi ha fatto, come dicevo prima, è stato bravo ad andare a metterci la faccia, anche se secondo me ha dato un'impressione di correre. Di Maio ha valutato che era meglio per lui non andare, e la gente alle prossime elezioni voterà e sceglierà chi le due. Ma mi sembra che sia anche questo sia un dibattito lontano anni luce da quella che è la realtà di chi, ripeto, stamattina probabilmente ci sta ascoltando, sta andando a lavorare e dice davvero, ma santo cielo, ma non avete niente di meglio da parlare? Allora, mentre mai più appropriata sottofondo quello di David Gilmour che dice tu cosa vuoi da me, dalle rovine di Pompei, con gli acuti della sua chitarra elettrica, arriva la denuncia del Movimento 5 Stelle, attenzione, hanno fatto votare gli interdetti e ce lo dicevamo tanti per messaggio ieri, ma sentito dalla loro voce. Ufficio elettorale, volevo sapere signora se mia madre aveva votato, che mia madre è in una casa di cura qua. Mi dica il nome. Carace Pietra si chiama. Sì. Gravina. Ok, e chi l'ha fatta votare? Ha votato. E hanno chiesto. Perché? È interdetta, capito? Quindi. E come lei avranno fatto votare tutte le altre persone. Ma cioè, ma è diventata una schifezza, è diventata completamente. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta, c'è anche questo in ogni battaglia elettorale, figuriamoci in Sicilia. Bersani su Grasso dice andrebbe da Dio. Rosatellum è fatto così e l'hanno fatto loro. Lo sanno che è tutta una finta dire chi sarà il candidato premier. Ciascuna lista si presenta con un capolista. Per il nostro profilo civico e di sinistra, che è il nostro profilo, Grasso andrebbe da Dio. Cosa devo dire più di così? Ci credi a Grasso candidato e possibile frontman politico dopo essere stato la seconda carica dello Stato? Sì, è è possibile, mi sembra insomma che anche le sue scelte vadano in quella direzione, però lì il problema è un altro, è vero che tutte e due ieri sera Renzi lasciava trasparire il nome di Gentiloni, che stamattina viene portato ai giornali, però lì bisogna capire perché e si problema... è detto sta lì apposta, mica a caso, ecco. Esatto, sta lì apposta perché quando mi ha chiesto chi sarebbe noi, dice quello l'ho messo io e quindi potrebbe essere uno dietro cui. Il problema però è un altro, questa ignobile e brutta legge elettorale che è stata approvata prevede le coalizioni. Quindi il problema è se c'è una coalizione per quanto riguarda il centro-sinistra. Mi sembra che il centro-destra abbia chiarito che quello che desidera che fa alla coalizione. Il centro-sinistra deve capire un'altra cosa. O fa la coalizione o non fa la coalizione. E mi sembra che l'area che sia non sia quella di fare la coalizione. Se non si fa la coalizione, possiamo anche qua, ci divertiamo, noi ci divertiamo un sacco, scriviamo pagine e pagine di giornali su Grasso, Gentiloni, tireremo fuori nomi no, però è un altro dibattito lontano anni luce. L'altra cosa, lasciami dire sul perché il video del voto dell'interdetta è abbastanza onestamente agghiacciante. Detto questo, però, va ricordato che quello che hanno fatto votare è il candidato del PD, quindi vuol dire hanno fatto brogli, non è andata benissimo diciamo per chi ha tentato quel brogli. Sì, per magari con la preferenza uno viene eletto. Speranza sulle aperture di Franceschini alla minoranza del PD. L'impostazione di Franceschini è ultratattica, come se il problema fosse incollare tra loro cose che sono incompatibili. Io non vado in campagna elettorale a dire viva il Jobs Act, io non vado in campagna elettorale a dire viva la buona scuola. Rovesciamo la piramide, ripartiamo dal merito e capiamo se c'è o meno la volontà di archiviare una stagione politica che è stata fallimentare. Caro figlio, ad Agorà c'è della metafore su questa situazione strana del centro-sinistra. Ma è mai possibile che si proceda in questa maniera? Sapete chi sono i Lemmings? Sono dei roditori che a un certo punto della loro vita, secondo una, per una ragione, diciamo così, che i naturalisti ancora studiano, vanno verso un burrone e si buttano tutti giù. Ecco, quello che io vedo fare adesso dai miei amici del PD e della sinistra che dal PD è uscita è un'operazione tipo quella dei Lemmings e sono francamente sconcertato. Hai capito? Uno scrittore impegnato in politica che tira fuori una metafora al suicida. Questa è bella però, quella della metafora, perché un po' cioè, mi sembra molto molto azzeccata, perché è un po' così, perché alla fine se vanno avanti ognuno per strada, e ieri sera mi sembra appunto che Renzi fosse molto determinato. Quando prima dicevo che mi sembra che non abbia capito quello che sta succedendo, quindi sostanzialmente dice io vado avanti da solo, non cambio nulla, anzi io ho fatto bene, io ho fatto qui, io ho fatto là, io ho fatto su, io ho fatto giù, io sono qui, io sono là, io sono bravo, io sono quello, io sono grande, io sono bravo, io sono bello, io vado esattamente a buttarmi in un burro, mi sembra, perché non capisco. D'altra parte gli altri dicono se c'è Renzi, ovviamente, quindi la linea di Renzi, l'alleanza non è possibile e quindi è chiaro che la strada è diritta verso quel burrone di cui diceva Caro Figlio, mi pare. Ma lo sapevi che il grande fratello VIP Izzo ha accusato la Rodriguez? Mi sono riguardata dentro e ho capito tante cose della mia vita e anche se mi dispiace il contesto, l'ho detto mille volte, non ce la faccio. Io sono felice per voi e mi auguro che sia una grande storia d'amore, però... Quando tu hai accusato Luca, ti ricordi quella cosa che non ho mai condiviso? Gli hai detto forse era tutto preparato, la tua storia, volevi fare il grande abbandono mediatico. Purtroppo mi sfiora lo stesso sentimento che ha sfiorato te in quei giorni. Allora, Cecilia Rodriguez, riassunto, ha lasciato il suo fidanzato Francesco Monti in diretta TV, travolto dall'amore per Ignazio Moser, scoccato dentro la casa. Ma e questo interessa il paese reale? Il reale interessa tanti milioni di telespettatori, perché l'altra sera il grande fratello VIP ha fatto il record di ascolto, quindi sicuramente interessa più dell'amore di Renzi e Speranza della divisione tra Renzi dentro la casa del PD. Basta, feroce, fermiamoci solo un attimo per restare, questa è troppo cattiva. Strade, torniamo subito dopo con Mario Giordano. Facciamo un'avvertenza sindacale, è immorale alzarsi a... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta "24 mattino". di Già Svegli. Il Partito Democratico ha fatto un crollo e anche Fava ha fatto un crollo con i suoi 100 passi. Allora adesso, piuttosto che dare in mano a Berlusconi e alla Meloni l'Italia, votiamo il 5 Stelle. Per noi italiani le elezioni siciliane non hanno proprio nessun senso. Malissimo a quest'ora. L'ho fatto per amicizia nei tuoi confronti. Beh, mi sveglio per le 8, leggo con calma i giornali, 9:30 e poi parte la giornata, con litri di tè e caffè. Sono notturno, sono più lucido alle 2 di notte che alle 6 di mattina. Io sono già sveglia per ascoltare la colonna sonora che fa da sfondo ai già svegli. Io voglio sapere da dove tratta. E questo è tutto. Non volevo essere sgarbata dicendo e questo è tutto, ma oramai non ho più niente da dire. Salve. Sto casino, Luca, finiscilo, una cosa, parti e finisci. Cacciaturian, questa è grande musica, grande romanticismo. Pensate, fu usata per la colonna sonora di un bellissimo film con Tim Robbins, Mr. Hula Hoop, e così abbiamo raccontato anche questo. Mario, volevo farti sentire un'altra delle perfide battute di Gianni Gnocchi. Senti. Renzi, comunque, non è venuto solo per il big match mancato con Di Maio, gliene frega fino a un certo punto, ma lui deve presentare qui il suo nuovissimo libro. Lui ha avuto un grande successo col libro precedente, il libro Avanti, vediamo. Adesso il nuovo libro è questo, Avanti fino a sbattere. Cattivo. Questa non l'avevo sentita, sì, cattivo. E paio lì con i roditori che si vanno a buttare nel burrone, quasi. Stupro a Roma, parla la madre e piange la madre di Mario Seferovic, il vero nome di Alessio Il Sinto, accusato di aver ammanettato e stuprato due studentesse di 14 anni nel Collatino a Roma. Mario sempre stava con me, con Marcato, gira a vendere roba, io vengo a casa, Mario sta con me. Mie figli non si minacciano, non si picchiano con alcune persone, non fare casino, non rubano. Non lo so cosa ha fatto quella ragazza di mio figlio. Io non lo so. Perché ha detto di mio figlio? Non è cattivo Mario. Mario è buono, capito? Sì, ma che una mamma difenda il figlio ci può anche stare. Quello che è inaccettabile è che un intero campo difenda il figlio. Soprattutto è inaccettabile che esistano ancora oggi delle, dopo tante, ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato, si sono fatti tanti progetti, che esistano ancora queste enormi oasi di legalità totale, perché quel campo di via Salone, come tu sai benissimo, come i tuoi radioascoltatori avranno probabilmente sentito, è uno di queste grandi centrali di illegalità, di vita che non, dove non si può vivere, i bambini non vanno a scuola, dove, insomma, esiste una situazione inaccettabile, che io non riesco a capire come si possa tollerare che esista tutto ciò. Quindi il problema non è la mamma che difende il proprio figlio, il problema è un gruppo di persone che difende una situazione inaccettabile oggi nelle nostre città, purtroppo non solo a Roma, ma a Roma in modo particolare. Allora Fabrizio del Reggio Emilia dice: a me interessava sentirlo quel confronto. Beh certo, giusto, anche a noi interessava, abbiamo solo detto che se ne parla troppo perché sono passati ormai 2 giorni dalla notizia e si passa avanti, non si può discutere di un mancato confronto più delle elezioni, però ripeto, hai ragione, sarebbe stato bello e anche spettacolare. Puigdemont è ancora lì e parla di colpo di Stato, farà appello contro la richiesta di arresto, pensa a una lista unitaria, lì i democratici vogliono unirsi. Una llista amplíssima, que hi hagi tot el govern, que hi hagi tota la gent que està defensant la democràcia, totes les sensibilitats, des del PDeCAT fins als sectors de la CUP o sectors propers a Podem, passant per demòcrates, per Més, per Esquerra, per tothom, per gent independent, per tothom que entengui que ara això va de lluitar. Penso que alla fine si sia persa l'occasione, quell'immagine del leader indipendentista che fugge a Bruxelles non ha giovato alla causa. No, totalmente, si è buttato via, è come uno che vince il biglietto alla lotteria e poi lo butta nel tombino. Lui ha perso l'occasione, se voleva fare quella battaglia. Il governo, diciamo, di Madrid, facendo una cosa clamorosamente sbagliata, cioè menando le vecchiette davanti ai seggi, gli aveva dato l'occasione per fare quello che voleva, che io non so poi se si fosse... Ma doveva farsi arrestare? Doveva rimanere lì, doveva proclamare l'indipendenza subito dopo, quando lui già fa quel primo discorso. Sì, secondo me lui la proclama e la congela. Esatto, è ancora precedente la fuga, perché poi la fuga è un aggravante. Ma lui sbaglia quando fa il primo discorso dopo quel giorno e fa una roba in cui giustamente da Madrid Radio gli manda a dire: ma scusa, ma cosa hai detto? Perché non si è capito bene, indipendenza sì o no, fatti capire cosa vuoi. E lì lui ha perso l'occasione, il momento. Notizia clamorosa dalla Gran Bretagna, sentite, un ministro del Galles suicida perché sconvolto dalle accuse di aver molestato dei minori, un padre e due figli. Breaking news this hour that the former Welsh government minister Carl Sargent has died just days after he was sacked from his role. Carl Sargent, Mario, è un'onda che parte dall'America, questo è veramente il mondo globale, arriva in Italia, stravolge, porta al suicidio un ministro. Però guarda, io ne abbiamo già parlato qua, all'inizio cose. Quando sembrava quasi una butade, attenzione alla caccia agli streghi, fui attaccato, mi disse attenzione alla caccia agli streghi, perché è evidente che esistono degli atti di violenza, vanno puniti sempre, comunque non bisogna lasciare passare nulla, ma il clima che si è creato, per cui anche se viene fuori una mia compagna dell'asilo di 40 anni fa, che dice che all'asilo entrai nella porta sbagliata, nel bagno delle femminucce, vengo messo, cioè è un clima grave, cioè è un clima pesante che non va nella direzione di punire i maiali che ci sono e che vanno giustamente puniti, che manca un clima sbagliato. Se io non conosco la vicenda singola del personaggio, un suicidio merita sempre rispetto. Quello che però mi preoccupa, ripeto, avendolo denunciato dopo i primi è la caccia agli streghi. Grazie. 52 secondi, inizia il giornale radio. Salutiamo Mario Giordano e poi entriamo nella rassegna stampa per sapere tutto.